«Non cederemo mai», tuona l'Eliseo. «Fatti curare», risponde Ankara. «L'Islam secondo Macron, il mondo secondo Erdogan». Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Let us turn now to France. There are tensions that are escalating between France and also some Muslim majority countries. L'Islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. Quiet, quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. You are fake news. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questa è una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. La squadra: Antonio Talia, Giulia Cannizzaro, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo. In regia c'è Valeria Bernardi. Commenti, domande, WhatsApp, SMS al 349-238-6666, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Macron ha parlato di crisi dell'Islam, non arretra sul cardine della laicità francese. Erdogan dice che deve farsi curare e mette nel mirino i cittadini musulmani. Chiama al boicottaggio dei prodotti francesi, insorgono e rispondono all'appello governi e società di tanti paesi musulmani. Siamo al punto di rottura. Questo è il tema che vi propongo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. 349-238-6666, noi intanto sfogliamo altri importanti dossier. E come immaginavo, è già da ieri, arrivano già i primi messaggi sul tema, tra pochissimo naturalmente ve ne darò conto. Non prima di essere andati negli Stati Uniti, dove è stata una bella vittoria per Donald Trump, perché l'aula del Senato americano ha confermato la nomina fatta proprio dal presidente in carica della giudice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema. Siamo a una settimana dal voto e il presidente si appunta una bella vittoria, perché sostanzialmente viene regalata all'alta corte una schiacciante maggioranza conservatrice, 6 toghe su 9. Secondo i democratici che lanciano l'allarme, questo metterà a rischio i diritti fondamentali dei cittadini statunitensi. La Barrett ha parlato nel corso della cerimonia per il giuramento alla Casa Bianca, ha detto: è un privilegio essere stata chiamata a servire il mio paese, ricoprirò il mio incarico senza paura, in maniera indipendente dalla politica e dalle mie preferenze. E poi andiamo a Hong Kong, perché oggi 4 attivisti pro-democrazia dell'ex colonia britannica sono entrati nel consolato degli Stati Uniti poche ore dopo che l'unità speciale della Polizia per la Sicurezza Nazionale aveva arrestato proprio nei pressi dell'ambasciata statunitense Tony Chung-Hon Lam, ex coordinatore di un movimento che ormai è sciolto, Student Localism. Alcune fonti giornalistiche sostengono che i quattro sono stati visti correre sul Garden Road e poi parlare con le guardie di sicurezza all'ingresso. Sono stati poi ammessi dentro il complesso, ma poi successivamente respinti. Però l'espulsione non è stata confermata ufficialmente, e c'è da chiedersi se non sia trattato di una sorta di manovra di copertura per mettere in sicurezza i quattro. Comunque la pagina Facebook del gruppo ha dichiarato che ore dopo l'arresto di Chung-Hon Lam, altri 2 ex membri del collettivo sono stati arrestati dalla polizia. Ricordiamo la situazione di Hong Kong, che vede una compressione eccezionale dei diritti, soprattutto di manifestazione e di libero pensiero, dopo quella nuova legge speciale tanto voluta da Pechino, che sostanzialmente sta spingendo molti dissidenti a o tacere o cercare la via dell'espatrio per poi continuare la lotta per la democrazia. Andiamo a parlare dell'altra spina nel fianco per il regime di Pechino, che si chiama Taiwan. E nuova linfa vitale, o benzina se preferita, secondo i punti di vista, arriva dagli Stati Uniti, perché il Dipartimento di Stato ha approvato la vendita a Taiwan di 100 sistemi di difesa Harpoon in un accordo del valore complessivo di 2.37 miliardi di dollari. Questa notizia arriva dal Pentagono un giorno dopo le dichiarazioni di Pechino rispetto alle sanzioni alle società statunitensi coinvolte proprio nella vendita di armi all'isola, tra cui ci sono colossi del settore delle armi statunitensi. La mossa recente degli Stati Uniti arriva dopo un'altra serie di mosse, un via libera di qualche settimana fa alla vendita di altri 3 sistemi di difesa a Taipei, sono inclusi sensori, missili, pezzi di artiglieria. Quell'altro contratto valeva, pensate, 1.8 miliardi di dollari. Adesso la palla passa evidentemente al Congresso per quest'ultimo contratto, ma diciamo che il dossier Taiwan gode di un appoggio in seno al Congresso sia tra i repubblicani che i democratici, quindi è facile che passerà la questione imprescindibile ormai per gli Stati Uniti della difesa di Taiwan contro le minacce di Pechino. In Pakistan è salito 8 morti e 112 feriti tra studenti e insegnanti. Pensate, il bilancio di un attentato contro una scuola coranica a Peshawar, siamo nel nord-est del Pakistan. L'esplosione è avvenuta durante l'insegnamento del Corano nella moschea Spen Jamaat, che funge anche appunto da scuola religiosa per la comunità locale. Secondo fonti investigative, 5 kg di materiale esplosivo, forse TNT, erano stati posizionati e all'interno dell'edificio e poi sono stati fatti detonare. Non c'è stata alcuna rivendicazione dell'attacco, anche se gli occhi, le penne di tutti gli analisti convergono verso la fazione Pakistan dei talebani. Torneremo molto presto a parlare di Pakistan perché, a dispetto forse dell'attenzione mediatica che riceve il vicino Afghanistan, è sempre foriero, è sempre un motore di incredibili dinamiche e torneremo sicuramente a parlarne. Finiamo con un'altra notizia che arriva dagli Stati Uniti e mentre la nomina della Barrett, così come il dossier taiwanese, potrebbe essere una molla per far votare quelli che restano, sono più di 60 milioni per adesso gli americani che hanno già votato, e quindi propendere per un nuovo voto a Donald Trump, c'è qualcosa che invece potrebbe smuovere quantomeno il voto degli indecisi democratici. E questo dossier ha un suono raccapricciante che purtroppo i cittadini statunitensi sono stati costretti a sentire ancora una volta. Un altro afroamericano è stato ucciso nelle strade di Filadelfia, 27 anni, Walter Wallace, poi ne sono scaturite proteste, 10 persone arrestate, negozi saccheggiati. Secondo i video che circolano sui social, la CNN ne ha mandato in onda un estratto, fermandosi ovviamente nell'istante immediatamente precedente alla sparatoria, si vede un uomo che brandisce un coltello, viene quasi raggiunto da una donna, anch'ella, afroamericana, che tenta evidentemente o di aiutarlo o dissuaderlo dal compiere atti ostili, e poi però i poliziotti che gli si parano davanti e dopo alcuni avvertimenti scaricano le armi, come avete sentito, su di lui. La famiglia adesso sta evidentemente criticando quello che è stato l'uso, secondo loro eccessivo, della forza. È possibile che questo ennesimo atto di cronaca diventi un'arma, ovviamente in campo democratico, per quella riforma della polizia. Attenzione, riforma, perché i democratici hanno abbandonato ormai il defunding police, quindi non dare più fondi alla polizia, ma riforma è uno dei cavalli di battaglia di Joe Biden. Il tutto a una settimana, evidentemente, dal grandissimo appuntamento del 3 novembre. Questi sono i nostri dossier internazionali, fatti, notizie, spunti che arrivano dai quattro angoli del globo, che saranno prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però andiamo a parlare di quello scontro Erdogan contro Macron, l'Islam contro l'Europa. Macron, zinsel noktada. Qual è il problema di questa persona che si chiama Macron con l'Islam e i musulmani? Macron ha bisogno di una cura psichiatrica. Cos'altro può essere detto a un capo di Stato che non capisce la libertà di culto e che si comporta in questo modo nei confronti di milioni di persone che vivono nel suo paese e che appartengono a una fede diversa? Queste le irrituali, irriverente parole del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, da molti soprannominato il sultano per le sue aspirazioni egemoniche, per la sua arroganza, in questo caso assolutamente irritualità e irriverenza, anche nel lessico strettamente diplomatico. Mi preme sottolineare un paio di punti prima di entrare nel merito della discussione e tornare anche ai tanti messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Il primo punto: Erdogan continua a alzare l'asticella delle sue provocazioni, da quelle economiche a quelle militari e geopolitiche. Ora però ha messo in campo un'arma devastante, che è l'uso politico della religione. Secondo punto, a nostro parere importantissimo, Macron si è trovato suo malgrado in un vicolo cieco, anzi diciamo cul-de-sac, permettendo a Charlie Hebdo di pubblicare le vignette, permettendo alle scuole di parlarne, proiettando le sue edifici pubblici e non spostandosi di un solo millimetro, ha lanciato un chiaro segnale: l'Islam ha dei confini in Francia e li decidiamo noi. Terzo punto. Essendo l'uso politico dell'Islam un'arma formidabile, stiamo assistendo a manifestazioni e dichiarazioni molto violente in molti paesi, dal Medio Oriente al Golfo. Alcuni di questi hanno a che fare con aspetti economici e con un boicottaggio che proveremo ad analizzare. Si stanno tentando di boicottare negozi e soprattutto merci vendute in varie catene internazionali in alcuni paesi del Medio Oriente e del Golfo. E poi ci sono gli aspetti di sicurezza. Immaginate tutti gli espatriati francesi in zone anche piuttosto calde, immaginate le forze di sicurezza francesi in Mali, in Niger. A gettare olio sul fuoco arrivano ovviamente anche i talebani, che apprezzano il boicottaggio dei prodotti francesi da parte dei musulmani oppressi. Tuttavia non è sufficiente, i blasfemi dovrebbero subirne conseguenze. La comunità islamica dimostrerà la sua lealtà al profeta, lo ha dichiarato il portavoce del Tehrik Taliban Pakistan, Muhammad Ghorasani, in un messaggio WhatsApp che è stato inviato al corrispondente dell'ANSA. Ha condannato così la pubblicazione delle vignette su Maometto in Francia e sostiene che Emmanuel Macron abbia superato ogni limite, sfidando il credo dell'intera comunità islamica. Questi punti che ci premeva sottolineare. Iniziamo dal primo capitolo, diciamo, che è strettamente diplomatico, che ha a che fare anche con l'essico utilizzato e con le relazioni che la Turchia ha non soltanto con la Francia ma con l'intera Unione Europea. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano l'ambasciatore Armando Sanguini, consigliere scientifico di ISPI. Ambasciatore, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei, ben ritrovato. Allora, partiamo dal lessico, durissimo il rituale per la diplomazia. Sostanzialmente Erdogan ha detto a Macron che si deve curare. Quanto l'ha stupito e quanto nella sua lunga carriera ambasciatore si è trovato di fronte a parole di questo tipo e cosa è accaduto dopo parole di questo tipo? Devo dire che quando si parla di linguaggio diplomatico, ecco, Erdogan ormai da parecchi anni è assolutamente fuori da ogni quadro accettabile. Ha usato parole veramente offensive, aggressive, e è curioso, devo dire, da anziano diplomatico, vedere come la comunità internazionale non reagisca adeguatamente di fronte a un personaggio che membro della NATO anch'esso e quindi obbligato a un certo tipo di comportamento. Flirta con la Russia, in Siria flirta con lo stesso jihadismo che oggi cerca di difendere, di attaccare, è un uomo che in Libia colpa anche in assenza di una presa di posizione europea, si schiera con Serraj, cioè è un personaggio che veramente ha fatto un giro di 180 gradi nel suo paese. Sì. E l'Occidente in particolare, un po' perché teme di essere ricattato, un po' per ragioni di convenienza politico-economica, ecco, tutto sommato lo tollera, e questo è profondamente inopportuno. Devo anche dire un'altra cosa però, che in tutto questo Macron forse poteva evitare di fare delle affermazioni, dovendo essere consapevole, pur nella sua arroganza, perché anche Macron non scherza in fatto di arroganza nazionalistica, sostenere che la religione musulmana è in crisi perché è incapace di prendere le distanze, impegnarsi a combattere il separatismo islamista giocando sulle parole islamico e islamista. Sì. Cioè gli ha offerto un'esca formidabile. Sì. Però di fronte a tutto questo, ripeto, il signor Erdogan, che ha difficoltà sul piano interno perché economicamente sta andando molto male, politicamente comincia ad avere dei grossi problemi di consenso, non aspetta altro che di scatenare la sua furia verbale, offensiva, ripeto, rispetto un po' a tutto il mondo. Dopodiché, intendiamoci, Erdogan è uno spregiudicato, però è anche capace di lanciare il sasso e poi nascondere la mano, cioè è persona che sa veramente giocare con spregiudicatezza senza, ecco, ripeto, senza oltrepassare il limite. L'abbiamo visto nel Mediterraneo in queste ultime settimane, in cui minaccia, però poi Ecco. E io credo che a questo punto l'Unione Europea in primis non basta condannare verbalmente, occorre prendere posizione. Le dirò di più, e la cosa che mi ha più sorpreso sì. È che la stessa Arabia Saudita di fatto si è schierata con la Francia perché vuole contrastare il disegno onirico di questo signore turco di diventare in fondo la bandiera del mondo musulmano contro un'Arabia Saudita che si definisce custode dei luoghi santi. Ambasciatore, con grande acume, con grande passione anche ci sta riprendendo a piene mani quelle che sono state anche tanti momenti della sua carriera sul lessico, sulle relazioni internazionali, ha anticipato uno dei temi che toccheremo, perché è francamente bizzarro, secondo tanti analisti, e lei lo conferma, che sia la Turchia di Erdogan a ergersi baluardo e manifesto dell'Islam contemporaneo, quando evidentemente Riyadh, anche per una posizione geografica, per avere i luoghi santi dell'Islam, è la storia, evidentemente, chiaramente lo rivendica. Citava lei, ambasciatore, la posizione europea. L'ANSA ha appena battuto una reazione che arriva dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Gli attacchi del presidente Erdogan alla Francia e al presidente Macron sono inaccettabili. Lo ha scritto su Twitter proprio David Sassoli. Il Parlamento europeo è solidale con il popolo francese dalla parte della libertà di espressione. Invito la Turchia a porre fine a questo pericoloso confronto, aggiunge Sassoli, ma è evidente, come diceva l'ambasciatore Sanguini, che la diplomazia non è fatta soltanto di parole e a inviti, perché di fronte all'Europa c'è un attore particolarmente spregiudicato. Lo sottolineava molto bene l'ambasciatore, bravissimo nell'alzare l'asticella, quasi oltrepassarla e poi fare il passo indietro, che ogni volta spiazza in maniera incredibile la diplomazia. Vado ai vostri messaggi al 349-238-6666, che sono veramente tanti. Qualcuno azzarda a fare un paragone, citando i baffetti, mi sembra Hitler all'inizio della sua carriera, qualcuno lo definisce un arruffapopoli dittatore che prende soldi dall'Europa e con quei soldi fa affari con l'ala più estremista islamica, e fa riferimento per esempio al dossier migranti, a tanti miliardi che l'Unione Europea ha donato alla Turchia per la gestione dei flussi migratori. Qualcun altro, l'Europa deve sposare la politica di Macron, punto e basta, ne va del nostro futuro, e così tanti altri messaggi. Sono quasi tutti di stigma, evidentemente, nei confronti delle parole di Erdogan, ma c'è qualcuno anche che si domanda dell'opportunità, così già come faceva l'ambasciatore Sanguini, delle mosse e delle parole di Macron. Qualcuno scrive che oramai la laicità, ma soprattutto quella vicenda sulle vignette Charlie Hebdo, è diventata quasi un corpo a sé stante, strumentale per la politica sia francese che turca. In proposito, e se tutto questo, e bilancio questa provocazione, ma neanche poi tanto, fosse semplicemente una gigantesca scena in cui va dissipato il fumus che la sta ricoprendo, perché in fin dei conti parliamo sì di Islam, parliamo sì di laicità, ma alla fine da almeno 5 anni è in corso un braccio di ferro violentissimo proprio tra Parigi e Ankara. Andrea Macchione ha provato a ricapitolarlo così, alla nostra maniera, in 90 secondi. Dal 2015 la Turchia è massicciamente impegnata in una politica estera particolarmente aggressiva. Non solo nel Levante, ma anche in Africa, Ankara ha cominciato ad espandere la propria influenza attraverso alleanze strategiche, basi militari, ricerca di materie prime e massiccio invio di mercenari. Mentre l'Europa sembra restare alla finestra, a contrastare l'espansionismo turco ci pensa da tempo la Francia, con la sua presenza in Africa occidentale, a Gibuti e in Giordania, oltre all'alleanza strategica con gli Emirati Arabi Uniti. La rivalità tra Macron ed Erdogan prende forma in Siria, dove la presenza militare turca compete con la missione francese Shamal. Mentre gli attacchi che Ankara lancia regolarmente contro i curdi in Iraq sono monitorati dai Rafal stanziati in Giordania. Poi c'è il fronte libico, dove Erdogan si è impegnato militarmente in supporto del GNA di Tripoli, mentre Macron ha sempre spalleggiato il rivale Haftar. Tensioni si sono verificate anche nel Mediterraneo orientale, dove l'espansionismo energetico e militare di Ankara ha dovuto fare i conti con la risposta di contenimento francese. La nuova base turca in Qatar, a soli 200 km dall'importante presenza militare francese ad Abu Dhabi, ha innervosito fortemente l'Eliseo, che nel frattempo teme per l'ex colonia del Gibuti la sempre radicata presenza di Ankara in Somalia. Infine, in Nagorno-Karabakh, la Turchia è il potente alleato di Baku, mentre la Francia, oltre ad avere un ruolo di rilievo nel gruppo di Minsk, deve rispondere all'importante diaspora armena presente nel paese. Lo scontro sulla religione è quindi solo l'ultimo capitolo di questa rivalità, forse, a ben vedere, semplicemente uno strumentale vestito che mira a coprire i reali motivi dello scontro. E questo è il lungo braccio di ferro tra Parigi e Ankara. Torno però immediatamente al nostro ospite, l'ambasciatore Armando Sanguini, consigliere scientifico di ISPI, una lunga carriera diplomatica. Ci sta anche raccontando, dal suo punto di vista, dalla sua esperienza, come sia stata così irrituale, così estremamente straordinaria, nel senso proprio etimologico del termine, questa serie di dichiarazioni. Un po' di messaggi al 349-238-6666. Più che laicità e laicismo ne hanno fatto la religione di Stato, così un ascoltatore che condanna in realtà quella che è stata l'utilizzo della blasfemia da parte delle vignette di Charlie Hebdo, inaccettabili le parole di Erdogan, ma anche la posizione francese di libertà di offesa alle persone. In particolare su Twitter ci sono una serie di esempi che poi cercheremo di usare e punteggiare questa lunga pagina di Nessun Luogo è Lontano. C'è stata un po' una levata di scudi anche da parte di tanti semplici cittadini in tanti paesi musulmani. Torno però dall'ambasciatore Armando Sanguini per capire, lei diceva basta parole da parte dell'Europa, il che significa sanzioni verso la Turchia, il che significa anche però andare a tagliare le gambe a tanti rapporti economici che l'Europa intrattiene con la Turchia. È conveniente, o forse è meglio provare a sedersi a un tavolo e ragionare? Provare? No, ma io su questo le do assolutamente ragione. Certo che la diplomazia è fatta di tante cose, ma non dimentichiamoci che a settembre l'Unione Europea si è riunita, aveva all'ordine del giorno anche il tema della Turchia, che è stato praticamente ignorato per ragioni di convenienza economica e commerciale, non c'è nessun dubbio. Però poi si paga tutto questo. Non ci dimentichiamo che è stato citato nell'ottimo vostro servizio il caso della Libia, no? Sì. In Libia quello che non si è detto è che Erdogan si è trovato offerto il destro di intervenire a fianco di Sarraj, che è il governo legittimamente riconosciuto sul piano internazionale, e la Francia, che pur a parole segue la stessa linea, nei fatti sostiene esattamente il contrario, cioè il suo rivale Haftar. Sì. Quindi io credo che l'Unione Europea deve fare ordine in casa sua, prima di tutto, sì. E poi però nei confronti della Turchia chiamarla ad un tavolo, cioè le cose vanno fatte in progressione. Quello che, se io fossi in Erdogan, direi mi si lascia lo spazio, è il momento che io ne ho bisogno assoluto per riaffermare il mio ruolo interno e internazionale. Ah, certo. Fino a dove mi posso spingere, mi spingo. E certo, si chiama opportunismo politico, e voglio dire, nessun grande attore può rinunciare a questo aspetto. Io ringrazio tantissimo l'ambasciatore Armando Sanguini, che sempre con grande lucidità e precisione riesce a inquadrare anche complicatissime relazioni internazionali come quelle che vi stiamo descrivendo. Ambasciatore, grazie mille, buona giornata. Grazie a lei, e buon lavoro. Giornata. Noi andiamo a sentire come stanno andando le borse in questi giorni così concitati, complice la pandemia. Poi apriremo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. State con noi. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. La libertà è sacrosanta, ma quando si mette a rischio l'incolumità dei propri cittadini e concittadini, ricordiamo le stragi a Parigi, ritengo che un po' di prudenza non guasterebbe, o pensiamo che con le parole sconfiggiamo l'integralismo islamico, così un'ascoltatrice via SMS, che ringrazio naturalmente per il contributo al racconto, alla discussione, al viaggio che stiamo facendo qui a Nessun Luogo Lontano, che si arricchisce di un altro tassello, perché il leader filo russo ceceno Kadyrov ha puntato il dito, anche lui si è unito ormai ai tanti anche capi di governo, contro il presidente francese Emmanuel Macron, accusandoli di provocare i musulmani, paragonandolo a un terrorista. Poi c'è qualcuno che torna a quella vecchia idea, mica tanto vecchia, perché la Turchia stessa qualche mese fa sollecitò l'Unione Europea a riattivare il processo di adesione, pensate, all'Unione Europea stessa. Qualcuno dice forse non sarebbe un'idea malvagia accoglierla nell'alveo delle regole anche europee, potrebbe, come dire, ricondurre a più miti consigli il presidente Recep Tayyip Erdogan. Il tutto è partito, evidentemente l'avete sentito, da toni molto molto accesi, quelli di una diplomazia totalmente sgrammaticata. Allora sentiamo un'altra voce di un altro ambasciatore, ma è anche analista al Carnegie Institute. Marc Pierini è stato ambasciatore dell'Unione Europea proprio in Turchia. Con lui siamo tornati sul punto delle ragioni dello scontro tra Macron e Erdogan. Sono ragioni prettamente strategiche oppure c'è anche uno scontro ideologico a tutti gli effetti? Sentite cosa dice Marc Pierini, raggiunto da Antonio Taglia. Je dirais que à l'origine de la situation actuelle, nous avons une situation difficile. Direi che all'origine della situazione attuale c'è la difficile situazione politica che il presidente Erdogan sta vivendo sul fronte interno. I sondaggi per le elezioni non vanno bene. La coalizione di Erdogan non arriva a dominare la situazione politica come in passato. E soprattutto la situazione economica turca è disastrosa. Ieri, e ancora di più stamattina, la lira turca ha registrato il suo minimo storico nel cambio col dollaro americano. È questa la ragione principale per l'attuale condotta del presidente turco Erdogan. Attaccare i leader stranieri è una sua abitudine consolidata. Lo ha già fatto nel 2007 con i leader tedeschi e olandesi. Lo ha fatto lo scorso fine settimana con la leadership americana per la controversia sul sistema missilistico turco. Insomma, è un'abitudine. E questa volta Erdogan ha scelto di attaccare il presidente francese Macron. Ma quello che la Turchia ha sottovalutato è la solidarietà tra gli stati dell'Unione Europea. Dopo gli attacchi di sabato e domenica, 25 degli altri 26 stati membri dell'Unione hanno manifestato il loro sostegno alla Francia e hanno condannato fermamente gli insulti del presidente turco e si sono uniti anche nella condanna al presidente del Parlamento europeo e alla presidente della Commissione. Quindi è una situazione che al momento non sta volgendo a favore del presidente turco. Questa è la voce, l'analisi, il commento di Marc Pierini, Carnegie Institute, ma anche ex ambasciatore dell'Unione Europea in Turchia, per cui una persona che ben conosce quelle che sono le ambizioni, le velleità e anche le vulnerabilità del presidente turco Erdogan, di questa sua nuova politica inaugurata nel 2015, una nuova strategia molto più muscolare, molto più aggressiva verso l'esterno e nascondere anche i problemi interni. Buongiorno e ben trovato, nessun luogo lontano, anche a Pasquale Annichino, ricercatore associato senior del Cambridge Institute on Religion e International Studies, editorialista fra l'altro per Domani e Il Foglio. Annichino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori, grazie per l'invito. Grazie a lei per essere con noi e la ringrazio intanto, se sarà così bravo e sintetico da dirmi, come dire, in uno slogan, se questo scontro Macron-Erdogan è più politico o più religioso. Grazie mille per la domanda, credo che gli slogan siano un problema di questi discorsi, ma ci proverò. Sì. Perché appunto le questioni sono complesse e soluzioni semplici per questioni complesse sono problematiche. Io direi che è uno scontro che è relativo alla geopolitica della religione, la chiamerei così, sì, per tenere insieme un attimo le due cose. Allora, grazie intanto a Pasquale Nichino per, come dire, intanto aver imbacchettato, ma col sorriso ha fatto bene, ci ha ricordato, ma è la nostra missione, attenzione che le sfumature sono importanti e non possiamo ridurre la complessità a uno slogan. È anche vero che questo braccio di ferro è super stratificato, il tutto parte evidentemente da una contesa geopolitica tra Francia e Turchia, il tutto poi viene alimentato da una spregiudicata abilità di Erdogan nell'utilizzare l'Islam come leva politica, il tutto riprende sostanzialmente vigore anche dal fatto che i rapporti con alcuni cittadini in Francia, tra governo e alcuni cittadini, sono evidentemente non serenissimi e che sicuramente la Francia, alcune banlieue hanno dei problemi. Insomma, tanti problemi, tante stratificazioni. Però le chiedo, Annichino, Macron ha parlato esplicitamente di un obiettivo, cioè la fondazione di un cosiddetto Islam dei Lumi, cioè un Islam in linea con i valori della Repubblica francese. E questo è un punto che fa saltare sulla sedia tanti islamisti, ma anche tanti fedeli musulmani. Cosa vuol dire Islam di Stato in Francia? Guardi, io farei qui due slogan. Innanzitutto direi vast program, e poi direi che dovrebbe far saltare sulla sedia anche i laici francesi, perché messa in questi termini, cioè, cosa c'è di meno laico di uno Stato che riforma una religione? Cioè, avrei difficoltà a vedere qualcosa di meno laico, e questo penso delinei bene qual è il problema, che è di comprensione dei processi e delle, direi anche, arriverei a dire, delle strutture mentali con cui noi affrontiamo l'analisi di questi temi. Sì. Il punto vero è che la tradizione della laïcité francese è una tradizione che a tratti diviene vera e propria ideologia nazionalistica di Stato. Per cui la Francia, come ha anche detto l'ambasciatore Sanguini nel suo intervento, ha delineato, ha un problema, io direi, quasi epistemologico e strutturale nel pensare soluzioni per l'Islam all'interno di una società multiculturale e complessa come quella francese, ma io direi come anche quella italiana oggi, che non sia per forza l'intervento massiccio dello Stato con una legge che va a riformare. Sì. Perché noi ragioniamo sulla base degli strumenti anche epistemologici e cognitivi che abbiamo a disposizione, e penso che questo sia uno dei più grandi problemi dell'approccio francese al tema Islam. Insomma, tenere le lunette, direbbero loro, gli occhiali appunto francesi, per osservare un fenomeno che arriva da fuori, si è inserito, si è integrato in parte con la società francese, forse è ora di cambiare appunto gli occhiali, i punti di vista. Questo è l'invito di Pasquale Annichino, ricercatore associato senior al Cambridge Institute on Religion and International Studies. Fra l'altro lei proprio su Il Domani, credo qualche giorno fa, aveva scritto che ha lanciato un allarme sull'inerzia del governo italiano nell'affrontare questi aspetti. Magari ci torniamo, direi andiamo a sentire il traffico, vediamo come se la passa chi sta viaggiando in auto in questo momento, poi apriamo la seconda pagina di Solo Lontano e torno anche dagli ascoltatori, perché sono tanti messaggi al 349-238-6666. Nessun luogo è lontano. Ancora una volta ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Il braccio di ferro tra Erdogan e Macron, che nasconde molto molto di più, nasconde un arsenale formidabile che è stato schierato soprattutto sotto la propulsione di Erdogan stesso, ha iniziato a utilizzare l'Islam come arma, e in parte qualcuno ha risposto dai quattro angoli del mondo. A Tripoli, come segnale Libia Observer, un negozio di abbigliamento usa le foto di Macron come segnale per distanziamento. Sostanzialmente si va a calpestare l'immagine di Macron, e sappiamo nel mondo arabo musulmano che cosa significhi questo gesto. Semplicemente il lanciare una scarpa è forse una delle offese più vituperiose che si possono immaginare. Foto bruciate di Macron, manifestazioni davanti all'ambasciata francese in Iraq, ma anche in Somaliland, in Bangladesh, appelli di cittadini pakistani in rete, tra cui volti noti della televisione ma anche giocatori di cricket, per lanciare un assalto digitale all'account Twitter di Macron, una sorta di jihad digitale. Sentite qua cosa abbiamo spulciato in rete. فرانس کے صدر نے اسلام کے بارے میں جو مہم اب چلانا شروع کر دی ہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرانس میں. E di video di questo tipo ne girano tantissimo in queste ore in rete, caricature di Macron realizzate con il corpo di cane, Macron con la faccia da maiale. Qualcuno ha scritto persino, pensate, bisogna bombardare la Francia con le armi nucleari. È evidente che la chiamata raccolta, anche un pochino disordinata, chissà quanta frustrazione si nasconde dietro alcuni di questi utenti Twitter, comunque è stata raggiunta. Torno però da Pasquale Annichino, ricercatore associato senior Cambridge Institute on Religion International Studies. Lei vede, Annichino, un rischio in questa chiamata alle armi, per il momento virtuale evidentemente, ma secondo me qualche analista della sicurezza sta facendo un paio di conti in questo momento. Beh, il rischio c'è sicuramente, ripeto, non è un rischio che noi scopriamo oggi, è un rischio che le autorità di sicurezza europee stanno vagliando già da tempo, Abbiamo avuto già dei precedenti in alcuni paesi, basta pensare al notissimo caso della Germania, dove i servizi di sicurezza hanno fatto e sono tuttora in corso varie indagini nei confronti di alcuni imam e di alcune moschee che sono, diciamo così, molto influenzati dalla politica estera del governo turco e dal Ministero per gli Affari Religiosi, il cosiddetto Diyanet, sì, che forma e poi manda in giro per diversi paesi i suoi imam, che spesso e volentieri Macron usa come, diciamo, servizio diplomatico di sicurezza ulteriore Erdogan usa come servizio diplomatico di sicurezza ulteriore rispetto a quello ufficiale. Quindi c'è una sorta di diplomazia religiosa e di servizi di sicurezza paralleli. Sì. E questo è un problema serio per quei paesi che appunto reclutano imam provenienti da paesi terzi. La Turchia può essere un caso, ma ci sarebbero anche altri casi da analizzare, ed è per questo che Macron dice vogliamo l'Islam di Francia, la Germania dice vogliamo l'Islam di Germania, eccetera eccetera. E questo però, mi permetto di interrompere Nichino, può essere un problema insormontabile, perché nel momento in cui l'Unione Europea non ha una chiamata comune a questo percorso di assorbimento, di laicità comune, è difficile anche trovare le parole, il lessico, naturalmente di questo mi scuso con i miei ascoltatori. Le faccio sentire però, Nichino, ancora la voce di Mark Pirini, ex ambasciatore UE in Turchia, perché Antonio Tella le ha chiesto se c'è una via comune europea alla laicità da percorrere, perché nel momento in cui scoppia un contrasto, forse il braccio di ferro tra il mondo musulmano a questo punto e Macron è più difficilmente gestibile di un contrasto, un faccia a faccia per quanto duro, tra l'intera Unione Europea e il mondo musulmano in generale. Sentite Pirini. Non sono sicuro che la laicità e la relazione con la popolazione musulmana in generale possa essere gestita in maniera armoniosa e congiunta da parte di tutti i paesi europei insieme. Questo semplicemente perché le proporzioni della popolazione musulmana cambiano enormemente da un paese all'altro e quindi ci sono grandi differenze in Europa. Di sicuro la definizione di laicità è anche differente da un paese europeo all'altro. Di contro, ritengo che il recente scontro tra il presidente turco e il presidente francese, che punta senza alcun dubbio a separare la Francia dai suoi partner europei, in vista della difficile discussione della Turchia prevista al Consiglio europeo per dicembre, sia stato scelto da Erdogan come terreno di scontro perché sposta la discussione non più su un contrasto per le frontiere marittime, o sul problema dei rifugiati, o sulla questione dell'unione doganale, ma la sposta su questioni religiose. Ma questo terreno, a mio avviso, è un terreno scivoloso, anche per la stessa diplomazia turca, perché, come abbiamo visto, non è un campo utile a discutere di differenze politiche. L'insulto, e soprattutto l'insulto personalizzato, non è mai un buon metodo. Penso che oggi la Turchia abbia già capito di aver commesso un errore diplomatico. Queste le parole di Mark Pirini, ex ambasciatore dell'Unione Europea proprio in Turchia, fra le altre cose adesso analista del Carnegie Institute. Un ascoltatore: trovare una via comune alla laicità nell'unione che ospita Polonia, Irlanda, fantascienza, così viene bollata. Torno allora da Nichino per capire un altro aspetto che abbiamo appena accarezzato. Citavo questo suo editoriale sul quotidiano Il Domani, quando auspicava che l'Italia prendesse in mano la situazione e non subisse eventuali scenari simili a quelli francesi. In estrema sintesi, in un minuto, riesce a sintetizzarmi cosa dovrebbe fare l'Italia, la società, il governo italiano per questa via in cui laicità si accoglie, diciamo, la laicità italiana accoglie anche l'Islam? Allora, innanzitutto dovrebbe interessarsi seriamente del problema. La mia paura è che la società e lo Stato italiano sia poi chiamato a reagire a seguito di situazioni emergenziali. La Francia negli ultimi anni ha avuto oltre 30 attentati, noi per fortuna sostanzialmente non ne abbiamo avuti, quindi non c'è stata mai una chiamata a una legislazione d'emergenza che andasse a affrontare i temi relativi all'Islam. Sì. Ma il punto è che se succede qualcosa probabilmente ci sarà questa chiamata, e la legislazione su base emergenziale non produce mai buoni frutti, per cui noi abbiamo necessità di instaurare un processo con le nostre comunità, di conoscerle per facilitare la loro integrazione e ovviamente richiamare tutti, non solo i musulmani, al rispetto di quelli che sono i diritti fondamentali sanciti dalla nostra carta costituzionale. Non ci sono diritti diversi e doveri diversi in base all'affiliazione religiosa dei cittadini. Grazie mille Pasquale Annichino, anche per la brevità e l'incisività con cui in un minuto ha risposto a quella che dovrebbe essere una sollecitazione rivolta anche al nostro governo, alla società tutta intera, perché leggo e non li leggerò anche alcuni messaggi particolarmente islamofobi, ma molto tranchant, senza francamente una profonda riflessione dietro, che è quello invece di cui abbiamo bisogno, al di là degli slogan. Grazie mille allora Pasquale Annichino, ricercatore del Cambridge Institute on Religion International Studies, buona giornata e buon lavoro. Grazie al nostro ascoltatore, arrivederci. Allora, siamo quasi in chiusura, vi propongo un altro paradosso. C'è qualcuno che ci taccia di essere islamofobi, molto strano, molto bizzarro, perché qualcuno non mi scrive più ma mi chiamava musulmeci a, come dire, evidenziare la mia vicinanza al mondo musulmano. E un altro, Valerio Bernardi, ti giuro questa contraddizione, perché c'è qualcuno che scrive rivoglio John Berko, saluti, e invece per quest'oggi ci facciamo accompagnare, chissà, alla porta, sempre da lui. You're fired. Così decise Valeria Bernardi. Intanto io ringrazio tutti gli ascoltatori per essere stati all'ascolto, la squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.